e altri gruppi abbiamo costruito dal nulla quasi il Movimento 5 Stelle. Poi vabbè, è successo qualcosa, ma questa è la sua vicenda personale, magari tra poco ci dirà. Io vorrei fare questa domanda intanto, perché qui Bersani si discute se abbia fatto bene, fatto male a dare del linguaggio fascista, a reagire, però si può dire a reagire, perché Beppe Grillo è uno che dall'alba dei tempi, quando gli passano i 5 minuti, usa queste terminologie molto molto dure. Perché lo fa secondo lei? Perché usa anche epiteti molto molto coloriti nei confronti degli avversari politici? Beh, qui c'è il suo background di uomo di spettacolo. Beppe Grillo ha una grande capacità di comunicare, è un artista, è un istrione, usa un linguaggio estremo, iperbolico per far passare dei messaggi che così arrivano più facilmente alle persone. Certamente io non sono per questo linguaggio estremo, però guardi, trovo assai più grave la definizione, l'epiteto di fascista usato, se vuole anche scorrettamente, perché attribuire diciamo la qualifica di fascista ad un interlocutore politico, ancorché avversario, sì, alla fine poi ha lo scopo di delegittimarlo. È un vecchio vizio questo del PD, dei comunisti prima, cioè dare del fascista a qualcuno che non la pensa come loro, perché in questo modo accreditano a se stessi una presunta superiorità democratica che non esiste. Ma vuol dire che dando del fascista in qualche modo implicitamente rispolvera anche il termine di comunista come antagonista al fascismo? Certamente riaffiora, diciamo, questa contrapposizione dialettica che opera sulle etichette, ma non affronta gli argomenti, i temi veri di cui si dovrebbe parlare. Peraltro questa diatriba... Sì, però la situazione... Cioè, mi scusi, Bersani ha come fatto capire... quando è troppo, cioè sono mesi che ci sono insulti eccetera, è sbottato dicendo questo è un modo, è un linguaggio fascista che non è legato alla terminologia del fascismo con valenze politiche del ventennio, è diventato un'altra cosa, insomma. È un'etichetta di non democrazia, cioè ecco. È un'etichetta che viene utilizzata, ripeto, per screditare. Io non credo che Bersani e il PD siano in condizione di dare lezioni di democrazia, perché laddove governano localmente siamo lontanissimi anni luce, diciamo, da modelli democratici e trasparenti. C'è una gestione chiusa, opaca del potere che è legata ad interessi prevalenti di pochi sulla maggioranza della popolazione. Io se fossi Bersani, non so, mi arrabbierei molto di più per gli attacchi della polizia ai manifestanti inermi del Notav, oppure... Vabbè, cosa c'entra però questo? No, ma è un altro discorso, nel senso, in questo caso rispondeva Beppe Grillo, no? Sì, certamente, però sa, quando si usa il termine fascista vuol dire antidemocratico, vuol dire accentratore, vuol dire... Però nel dibattito politico l'uso, lei dice, istrionico dell'insulto, cioè effettivamente dà un po' fastidio, cioè immagini lei a sentirsi dare, lei o qualsiasi avversario politico, che poi Beppe Grillo non risparmia nessuno, dello zombie, del morto vivente, si prende in giro l'uso dei nomi, si storpiano i nomi, cioè non è una cosa francamente... No, piacevole, gliel'ho detto anche prima, io non approvo questo uso estremo del linguaggio. Allora uno che deve fare? Lei lo chiama insulto. Certamente replicare si può dicendo semplicemente, per esempio, che l'uso di questo linguaggio può anche portare fuori dal seminato, non affrontare gli argomenti. Guardi, è un problema che poi ha lo stesso Grillo nel momento in cui questo stesso linguaggio o per emulazione viene adottato all'interno del Movimento 5 Stelle da qualche frangia estremista e molto più fascista che non invece la globalità del movimento stesso, oppure può essere utilizzato contro da avversari politici da altre parti, diciamo, della nostra società, che induce a, come dire, a fare polemica sterile sugli insulti piuttosto che a parlare dei problemi del paese. Ho capito, però insomma d'accordo, però mi sembra in questo caso che Bersani abbia incassato, come altre, una serie di insulti, poi una volta parla e ci si concentra tutto su questo. Ma insomma, perché ha dei peccati da farsi perdonare? Ha dei peccati. Cioè, gli insulti, magari può anche avere ragione, nel senso che non deve essere insultato, anche se è Bersani e anche se è il PD. Però, insomma, al governo con Berlusconi c'è lui in questo momento. Cioè, sa cosa dice Pennacchi? Antonio Pennacchi sostenendo un governo, diciamo, al servizio del sistema finanziario delle banche. È lui che ha messo in questo momento da alcuni mesi. Però queste sono critiche politiche, queste sono legittime critiche politiche, no? Che uno può fare e uno risponde. Ecco. Certo. Senta, le chiedo questo: Antonio Pennacchi, che ha scritto Il Fascio Comunista, insomma, lo scrittore, oggi sul Corriere dice: altro che fascista, a me Beppe Grillo sembra più un nazista, uno che non fa mai interviste, impedisce ai suoi di parlare in TV. Non si espone mai al dibattito pubblico e sentenzia con queste delegittimazioni totali dell'avversario. Mi sembra più una logica vicina al nazismo che al fascismo addirittura. Ma guardi, io colloco queste dichiarazioni sullo stesso piano del morto che cammina e dello zombie, cioè sono affermazioni delegittimanti che servono a screditare l'avversario politico. Beppe Grillo è, ripeto, un artista, lui non è nemmeno il leader del movimento, è un portavoce, ha una libertà di espressione che gli viene riconosciuta e concessa ormai da tutti, ma non è detto che quando parla lui parli il Movimento 5 Stelle intero. Il Movimento 5 Stelle è fatto da migliaia e migliaia di persone attive, visti eletti che operano tutti i giorni nella politica, nella società, e si danno da fare, capisce? Quindi attribuire queste espressioni all'intero movimento, che peraltro non le usa di norma, quindi non è il modo di infatti il problema è questo, c'è Beppe Grillo, è un grande errore. Ma cioè infatti è anche lei spesso ha criticato, per esempio venendo alla sua vicenda, lei mi sembra anche molto vicina a Beppe Grillo, anche se è Beppe Grillo che le ha spedito la lettera inibendola dall'utilizzo del movimento, dicendo in realtà c'è dietro il guru di Beppe Grillo, Casaleggio, che è un po' la sua la mente grigia di tutto quello che viene. È così? Cioè, davvero? Ma guardi, io non ho nulla contro Casaleggio e certamente c'è da parte sua un muoversi, un atteggiarsi all'interno del movimento che lo identifica come un grande manovratore, stratega del movimento stesso. Io non la prendo con Casaleggio, io dico che c'è un problema di democrazia interna nel Movimento 5 Stelle, peraltro una democrazia che viene sancita, certificata dal nostro non statuto, come lo chiamiamo noi, che dice che il governo, gli indirizzi del movimento sono nelle mani degli utenti della rete, cioè dei cittadini. Ora, se questi utenti della rete non vengono mai chiamati a discutere e a votare le scelte politiche del movimento, è un'affermazione che rimane campata in aria e non trova una propria attuazione. Le scelte arrivano attraverso post di Beppe Grillo, scelte fatte non discusse, non condivise con gli attivisti, con gli eletti, ma con tutti i cittadini che aderiscono al Movimento 5 Stelle, chiaramente sono il segnale che il movimento non è quel movimento buono, democratico, che ha il compito di cambiare il paese. E noi stessi ci siamo avvicinati a questo progetto politico perché questa era l'ispirazione di partenza, rischia di diventare, se non viene corretta la rotta immediatamente, un movimento diciamo da marketing politico, un movimento che ha raccolto certamente consenso, ma attraverso una tecnica comunicativa e di marketing che non è la costruzione di un movimento politico. Ultima cosa, Beppe Grillo, lei lo sente più? Cioè personalmente? Ci siamo sentiti l'ultima volta con la vicenda di Parma. Ah, quando lei era stato indicato dal sindaco Pizzarotti per diventare il city manager, poi essendo stato in qualche modo espulso non poteva più diventare. E che le ha detto? Cioè... sì, Federico mi aveva chiesto di fare il direttore generale a Parma per dargli una mano, poi è arrivato questo post di Beppe Grillo, firma di Beppe Grillo, ma l'ha scritto, a mio modo di vedere, Casaleggio con grande certezza, il guru, che dice no, non puoi andare. E Beppe Grillo l'ha chiamata. Beppe Grillo mi ha chiamato per spiegarmi le ragioni, secondo lui, per le quali io non avrei dovuto andare a Parma, non sarei dovuto andare a Parma, perché avrei spaccato il movimento, perché da espulso, tra virgolette, sì, certo, certamente avrei creato un problema. E lei ha accettato queste spiegazioni, le ha trovate? No, io le ho rifiutate, anzi ho detto a Beppe che lui aveva già sbagliato ad inibire l'uso del simbolo perché aveva seguito dei rumors, delle voci che non correvano corrispondevano esattamente alla realtà, e cioè che in Emilia Romagna si volesse creare un partito separatista, eccetera eccetera, e come dire, lui ha bozzato, perché di fatto credo si sia accorto di aver fatto un errore con quell'espulsione, e questo secondo grave errore di Parma ha messo poi il Movimento 5 Stelle sotto i riflettori dei media nazionali e ha posto a tutto il paese un problema di democrazia interna che esiste. Vabbè, insomma, poi vedremo. Da allora non vi sentite più. Io intanto la ringrazio per essere stato con noi. Grazie Valentino. Grazie Tavolazzi, consigliere Grazie comunale a Ferrara, per la lista Progetto per Ferrara, è stato espulso dal Movimento 5 Stelle. Allora noi ci fermiamo tre minuti, poi parliamo di questa tassa, forse in arrivo, la tassa di scopo sulle bibite zuccherate, edulcorate, una tassa perché fanno male alla salute, e quindi lo Stato dice utilizzeremo i proventi per poi investirli nella salute dei cittadini, ma anche la stretta sui videopoker, la stretta sul fumo. Che ne pensate? È stato etico, oppure uno Stato che legittimamente cerca di inculcare anche un corretto utilizzo e un corretto regime alimentare dei propri cittadini? Tra poco, 800 24 00 24. 24 mattino. Siamo qui alle 8:35 minuti. Allora, pare che proprio si faccia sul serio con questa tassa di scopo che il governo vuole porre, verrà posta in Consiglio dei Ministri, e che riguarderà che cosa? Una tassa triennale, un contributo triennale pari a 7,16 euro ogni 100 litri immessi sul mercato per i produttori di bevande analcoliche con gli zuccheri e gli edulcoranti, cioè le soft drinks. Lo traduco meglio, dai, anche se facciamo la Coca-Cola e affini. Si tratta, credo, di 3 centesimi di euro a lattina, più o meno. I proventi si pensa di recuperare 250 milioni di euro l'anno, che lo Stato poi reinvestirebbe per quei settori, per curare la salute dei cittadini. Allora, la domanda banale che vogliamo porre oggi è questo: è una soluzione da Stato etico, come sostiene qualcuno, cioè uno Stato che pretende di inculcarci anche gli stili di vita e comportamentali, dell'abitudine alimentare, eccetera, oppure legittimamente uno Stato si preoccupa anche della salute dei propri cittadini, e quindi, visto che poi una non corretta alimentazione comporta delle malattie anche, che poi lo Stato deve curare attraverso il sistema sanitario assistenziale, e quindi è giusto che lo Stato anche disincentivi dei comportamenti alimentari errati o degli abusi di alcune sostanze. La tassa sarà anche sui superalcolici, e ne vogliamo parlare con l'editorialista del Corriere della Sera, Piero Stellino, che ritrovo con piacere. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Saluto anche l'onorevole Paola Binetti dell'UDC. Buongiorno, onorevole buongiorno Binetti. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Allora, Stellino, lei già ha chiarito ieri sul Corriere la sua posizione molto netta nella prima delle mie due posizioni, cioè dire quella di uno Stato etico, uno Stato che sbaglia a fare così. Perché sbaglierebbe? Che cosa c'è di sbagliato nel curare anche dell'educazione alimentare dei cittadini e del disincentivare anche con una tassa l'utilizzo di sostanze che possono nuocere alla salute? Beh, innanzitutto è uno Stato imbroglione che si trucca da Stato etico, quindi è doppiamente imbroglione. Cioè è imbroglione perché ci tassa qualsiasi cosa che noi facciamo o che consumiamo. Fra poco verranno tassate anche le effusioni fra innamorati, cioè non ci si potrà baciare con la propria fidanzata, si dovrà pagare una tassa. E questo vuol dire semplicemente sprecare delle risorse che il Paese potrebbe spendere meglio. Cioè l'idea che lo Stato debba cercare, o il Governo debba cercare e trovare delle risorse per rilanciare il Paese, è un'idea truffaldina. Le risorse vanno liberate, cioè le risorse che ci sono nel Paese devono potersi esprimere sul mercato attraverso dei contratti individuali. Ecco allora perché lo Stato diventa truffaldino quando pretende di curare la nostra salute impedendoci di mangiare la Nutella piuttosto che di bere una bevanda gassosa. La salute, o meglio l'alimentazione, è un fatto personale. Se io voglio ingrassare sono fatti miei, non sono fatti dello Stato. Sì. E lo Stato che si intromette tra me e la Nutella o tra me e la bevanda gassosa è uno Stato falsamente etico, mentre in realtà è uno Stato imbroglione che cerca di sottrarmi dei soldi dalle mie tasche. Vuole solo siamo fare arrivati cassa. Ormai oltre il 50% di confisca del reddito individuale da parte dello Stato. Abbiamo le tasse più alte del mondo e continuiamo a parlare di crescita mentre il Paese è in piena depressione, i consumi sono precipitati, fra poco calerà anche il gettito fiscale perché meno si consuma e meno si pagano tasse, tasse quantomeno indirette attraverso i consumi, e quindi questa è una catastrofe politica, cioè questo governo è semplicemente incapace di governare un paese moderno. Però, Ostellino, le faccio qualche esempio così pescato in giro per il mondo. Michelle Obama, sappiamo, ne ha fatto anche una campagna personale a dire lotterò dal punto di vista più non ovviamente delle tasse ma dell'educazione nelle scuole per un corretto regime alimentare. In Francia, paese che lei conosce molto bene, credo che stiano mettendo anche fino a 6 euro il pacchetto di sigarette per disincentivare, cioè colpisco col prezzo un qualcosa che fa male, perché poi se uno fuma fa male e poi giustamente pagando le tasse deve essere curato dallo Stato. In America anche credo il sindaco di New York ha abolito le mega bibite, le mega bottiglie, quelle che insomma, quindi c'è questa problematica affrontata almeno nel mondo, no? Ci si pone questo problema. Però fin tanto che viene perseguita attraverso l'educazione alimentare, cioè si deve insegnare ai cittadini nelle scuole attraverso altri mezzi di comunicazione che ingrassare fa male e che quindi bisogna in qualche modo mangiare meglio. Ecco, questo, tutto questo è giusto che avvenga. Quando questo però viene imposto attraverso delle forme di tassazione, allora diventa non più la salute del cittadino, ma la salute dello Stato, meglio della classe politica che controlla lo Stato. È quello il punto, dirimente, la tassa. Effettivamente, oggi sul Sole 24 Ore vorrei chiedere a questa all'onorevole Paola Binetti, dalla quale ho letto qualche dichiarazione invece di apertura su questo tipo di provvedimento. Effettivamente, oggi sul Sole 24 Ore c'è scritto: se è un qualcosa che lo Stato vuole fare per migliorare anche la salute dei cittadini, perché è prevista questa tassa per 3 anni? Che succede? Tra 3 anni la salute dei cittadini non conta più? Cioè messa per 3 anni sembra un qualcosa come per dire facciamo un po' di cassa per 3 anni, o no, onorevole Binetti? Allora vorrei distinguere 3 cose, no? La prima, che sono d'accordo quando Stellino dice che risolvere i problemi del paese semplicemente aumentando i livelli di tassazione in un paese che è già il più tassato al mondo fa un'operazione che in qualche modo ferisce anche complessivamente la libertà dei cittadini. Io mi sento francamente molto più ferita nella mia libertà dall'aumento della benzina, forse che non dall'aumento della Coca-Cola, ma in questo contesto generale noi siamo ormai arrivati proprio alla saturazione assoluta dei livelli di tassazione. Questo è il primo punto. Secondo punto, mi sento anche d'accordo quando lui dice che ovviamente un intervento a favore della salute dei cittadini va fatto soprattutto attraverso un grosso lavoro di educazione, l'educazione alimentare, peraltro per inciso a prescindere dalla mia attività politica, nel mio lavoro professionale proprio di persona che si è sempre occupata di pedagogia medica, sono totalmente d'accordo che educare uguale far salute, no? E anche questo è un punto di vista. Il terzo punto è che messi a tassare qualcosa, allora è tanto più giusto tassare ciò che fa male, ciò che nuoce alla salute delle persone, non solo e non perché si tratti di una tassa etica in qualche modo, ma perché le conseguenze, è qui che è un po' l'ambiguità del concetto di libertà, no? Ma le conseguenze di questa mia presunta libertà nel mangiare ciò che voglio, bere ciò che voglio, le paghiamo tutti. Le paghiamo tutti. Quando lei ha davanti a sé un paziente obeso che va incontro a accidenti cardiovascolari, che in qualche modo va incontro a un processo di disabilità, oppure semplicemente un paziente che attraverso il fumo, che non è questo il caso, aumenta il suo rischio di tumore polmonare. Certo, certo. Poi ci sono i costi degli esami, Stato, delle visite. È giusto che lo Stato faccia un intervento Il più precoce possibile per liberare risorse attraverso la sanità da dedicare a tutte quelle patologie che oggi sono, da un punto di vista epidemiologico, le più difficili. Beh, è interessante però questo punto, però questo è un punto molto interessante. Ostellino, l'onorevole Binetti dice in pratica questo: tu cittadino paghi le tasse, va bene, ma se tu cittadino paghi le tasse e sei retto, non fumi, non bevi superalcolici, hai un regime alimentare, dovresti in qualche modo essere premiato, se si vuole, perché non pagherai quelle tasse che invece il consumatore di sostanze nocive deve pagare, perché poi dopo lo curiamo sempre noi Stato, e lo curiamo di più perché presumibilmente avrà bisogno di più esami, di più visite, di più cure rispetto a una persona che si comporta in maniera retta. È un discorso che regge questo? No, non regge, perché è una balla, ed è una balla colossale, perché lo Stato sociale, cioè l'assistenza che lo Stato fornisce ai meno abbienti o comunque a quelli che hanno bisogno ad esempio di assistenza sanitaria, viene data dallo Stato indipendentemente dai comportamenti socialmente o moralmente ineccepibili da parte del cittadino. Cioè lo Stato sociale esiste in quanto è una conquista dello Stato contemporaneo, non attiene ad una concezione etica del rapporto tra cittadino e Stato. Cioè io vengo curato dallo Stato, il cittadino comune viene curato dallo Stato indipendentemente dal fatto che mangi grasso o che beva bevande gasate, perché questo è lo Stato sociale. Sì. Quindi l'idea di collegare lo Stato sociale ad un comportamento ineccepibile dal punto di vista sociale ed etico del cittadino è una truffa, Lo Stato sociale esiste comunque ed è coperto dalla fiscalità generale, certo, però non è coperto dai comportamenti eticamente ineccepibili. Questo sì, in questo principio avverrebbe, diciamo, alla fonte, cioè io ti curo comunque, però ti metto una tassa, e così tu lo sai che se ti... anche questa è una storia, perché se noi ci avviamo su questa strada, lo Stato ci imporrà di mettere la maglietta della salute. Io la maglietta della salute non la voglio mettere. E se lo Stato mi dice: se non metti la maglietta della salute prendi la bronchite e io devo spendere dei soldi per curarti, bene, io pago già le tasse per quello e la maglietta della salute non la voglio mettere. Cioè sono gli Stati totalitari che considerano la salute un bene pubblico. Insomma, questo Hitler considerava la salute dei tedeschi un bene al servizio dello Stato. Hitler. Dopodiché li ha mandati a sfracellarsi nella Seconda Guerra Mondiale. E poi io mi rivolgo alla signora Binetti. Persino la Chiesa, il massimo dello Stato etico, riconosce il libero arbitrio dei cittadini. Non è che agli uomini viene tagliato il pisello perché non tradiscano la moglie. Cioè hanno la libertà di tradirla la moglie, ma però commettono un peccato e quindi hanno la libertà, il libero arbitrio di comportarsi come credono, ma poi di pagarne le conseguenze. Dico, se questo lo pensa persino lo Stato etico per eccellenza, cioè la Chiesa, abbiamo tutto da imparare dalla Chiesa, da questo nostro Stato imbroglione. Allora, si fermi qui, perché la replica su questo tema, strettamente che connette anche il concetto di libertà, dell'onorevole Binetti, subito dopo le informazioni sul traffico. Allora, onorevole Binetti, qui c'è da replicare sul tema stesso di libertà, che lei ha anche evocato e che Piero Stellino dice è la base di tutto questo discorso. Il libero arbitrio di poter decidere anche che mangiare tanto e in maniera scriteriata fa male, ma magari intanto può procurare felicità. C'è da dire a Stellino, a parte le riserve, non ho capito bene il tono, su quello che diceva a proposito della Chiesa come Stato etico. Era chiaro il tono. Le ironie sulle quali evidentemente non entro. Voglio dire però che la Chiesa non paga i conti e le conseguenze dell'eventuale tradimento del marito alla moglie. Viceversa, lo Stato paga i conti e le conseguenze di tutte le patologie che in qualche modo io liberamente mi procuro. Quella libertà senza responsabilità, il cui costo è messo in conto agli altri, in un contesto come l'attuale, sì, in cui noi abbiamo delle risorse sempre minori e quindi non riusciamo nemmeno più a guarire, a curare, non dico a guarire, a curare una serie di pazienti. Lei pensi che adesso le ristrettezze di bilancio a cui vanno incontro molto spesso gli ospedali pongono dei problemi etici serissimi dal punto di vista della gestione delle risorse. Però... allora la domanda è: se io mi sono davvero liberamente voluto in qualche modo procurare una serie di patologie, che faccio? È non giusto ti curo? Che questa libertà abbia il costo di sottrarre energie e risorse ad altri pazienti. Ma d'accordo, però onorevole, questo è un discorso molto pericoloso. Cioè, diceva Stellino che la conquista dello Stato sociale è che lo Stato sociale ti garantisce le cure senza andare a sindacare perché uno si è ammalato. Attenzione, ci sono due punti Il primo che, come lei ben sa, il bilancio regionale è assorbito tra l'85 e il 90-92% dalle spese della sanità, per cui lei pensi per differenza quanto poche sono le risorse che le regioni possono dedicare a tutto il resto dei bisogni altrettanto sociali dei cittadini. Ma oggi come oggi queste risorse non sono più sufficienti a coprire quelli che noi chiamiamo in senso tecnico i livelli essenziali sì. di assistenza. E quindi che dobbiamo fare? Dovremmo distinguere i comportamenti? No, e quindi questo cosa vuol dire? Che bisogna arriva un malato magari grave, obeso, bisogna capire se è una cosa congenita, no, se si è comportato no, male? No, non è questo il punto. Quando il malato arriva, diciamo tra virgolette, comunque si sia procurata, se se l'è procurata, va curato. Non è sempre così, questa patologia lui va curato e va dedicato tutte le risorse disponibili. Però è evidente che lo Stato deve coinvolgere i cittadini in un tema di responsabilità sociale, perché non esiste solo la libertà personale, esiste anche la responsabilità sociale che cerca di... È vero che questo bisognerebbe farlo prevalentemente con l'educazione, cioè, però lei capisce anche la possibilità di punire alcuni comportamenti alimentari. Come quando le proibisco di fumare, per esempio, nei luoghi pubblici, perché il fumo passivo nuoce anche a quello che non fuma. Ha capito questa è una proibizione che ha un valore, diciamo, di tutela della salute sì, delle persone. Ostellino, ha capito, questo è, cioè, ci sono anche... Lo capisco benissimo che la signora Binetti faccia questo discorso. La signora Binetti è una cattolica e quindi ha una concezione teocratica dello Stato. Io non ce l'ho, ma non ce l'ha nemmeno la Chiesa. Cioè, quando la Chiesa riconosce il libero arbitrio, che cosa vuol dire? Che associa il principio di responsabilità al peccato. Cioè, guarda che se tu pecchi, la responsabilità è tua. E la stessa cosa dovrebbe valere per lo Stato. Cioè, abbiamo uno Stato assai meno laico della Chiesa. Cioè, e perché l'abbiamo? Perché abbiamo uno Stato truffaldino. Se la classe politica, invece che sprecare oltre il 50% della ricchezza prodotta del Paese, oltre che il 50%, amministrasse meglio e non si comprasse il consenso con i soldi dei contribuenti, beh, forse andremmo meglio. Però a questo punto è evidente che lo Stato ha il dovere di assistere il cittadino malato, ma non ha il diritto di chiedergli comportamenti socialmente responsabili quando mangia il foie gras. Quando mangia il foie gras sono affari del cittadino. Non sono affari dello Stato. Sentiamo su questo all'800240024 Federico da Pisa ci chiama. Federico, buongiorno. Sì, buongiorno. Che pensa lei di questo dibattito? Beh, molto interessante. Sono totalmente d'accordo con il dottor Ostellino. Se continuiamo così, perché non ritiriamo fuori la famigerata tassa sul sale? Che chi ha letto un po', chi ha studiato un po' di storia se la ricorderà, perché insomma il sale fa alzare la pressione, fa male. Non è possibile andare avanti con questo tipo di Stato. Qui si sta solo cercando delle scuse per tirare fuori degli altri soldi dalle tasche dei cittadini. Quindi questo è fare cassa. C'entra niente. La salute non c'entra niente. Questo è fare cassa. Se vogliono evitare lo smodato uso del tabacco o delle bibite gassate, ne proibiscano la pubblicità. Zuccherate. Assolutamente gassate, zuccherate. Sì. L'altro giorno abbiamo letto sul giornale la tassa sull'anidride carbonica, quindi mi riferivo a quello. Va bene, grazie. Va bene. Federico. Luca da Torino, buongiorno Luca. Sì, buongiorno. Pensavo solo questo, è che tutto quello che ci stanno raccontando può essere condivisibile o meno. Il problema di base è che comunque non sono credibili. Ne ha detto una delle motivazioni, l'ha detta proprio lei. Non puoi vendermi il tabacco e poi scrivermi sul pacchetto che mi uccide. È un controsenso totale che tra l'altro abbiamo solo noi, per cui se hai tanto a cuore la mia salute, non puoi da una parte vendermi una cosa come gli alcolici, per esempio, e dall'altra puoi dirmi che fa male. E quindi io non riesco a credere che questo ministro abbia a cuore la mia salute se mi bevo una bevanda gasata o meno, tassandomela di 3 centesimi, non sono credibili di base. Se io bevo dalla bottiglia e dico a mio figlio guarda che non si fa, quello mi guarda e mi dice già, è perché tu lo fai. Però guardate, no, ma capisco la sua obiezione, Luca. C'è da dire però, questo per fare, se vuole, un assist all'onorevole Binetti, torno al punto che anche in Francia, appunto, 6 euro il pacchetto di sigarette, cioè si colpisce, come in tanti paesi le sigarette costano molto, perché è un modo per disincentivare il fumo, e su quel prezzo, tra l'altro, lo Stato, immagino, si prenderà anche una parte delle tasse, è un po' una tassazione anche questa. Onorevole Binetti, secondo lei questa dovrebbe essere una strada percorribile, cioè pacchetti di sigarette a 7, 8, 10 euro, così se fumi e fai male almeno paghi, oppure è una anche questa? Di più, le voglio dire di più, sì. Io trovo ancora più iniquo in questo sistema che lo Stato faccia cassa sul gioco d'azzardo, sì. Cioè il gioco d'azzardo nuoce gravemente alla salute, nel senso che sappiamo tutti che stanno aumentando in maniera progressiva i giocatori patologici, mentre qui noi facciamo una propaganda massiccia a giocare in tutte le possibili forme, diciamo, anche dei moderni giochi di cui lo Stato in qualche modo si fa, attraverso l'Associazione dei Monopoli dello Stato, come dire, gestore, e pur tuttavia noi sappiamo che il numero dei giocatori patologici aumenta, quindi da un lato incentiviamo il gioco, dall'altro sappiamo che il gioco fa male. Anche se in questo decreto è stato messo il limite di 500 metri. Abbiamo talmente tanto insistito su questa ambiguità dello Stato, che fa cassa su tutto quello su cui può fare cassa e poi non investe proporzionalmente su tutto ciò che può fare cura. Quindi da questo punto di vista, secondo me, è come al solito un gioco di equilibri. Sì. È chiaro che la Coca-Cola io la posso bere e non mi farà male alla salute se ne bevo una quantità. E però c'è il rischio di pagarci 3 centesimi di tasse. Però c'è il rischio di pagarla di più, perché ci gravano le tasse adesso, forse. Sì. E questo probabilmente incentiverà a consumarne di meno. Io non trovo nessuno scandalo in tutto questo. Per me, le dico, lo scandalo è il valore complessivo della tassazione che grava sugli italiani. Questo assoluto. Sì. Devo concludere. Ostellino, il titolo di apertura del Corriere della Sera, del suo giornale, oggi è prima pagina: le nuove regole sulla salute. Forse già non le piace l'idea che vengano imposte delle regole sulla salute, evidentemente. Ma guardi, io non mi scandalizzo nemmeno più di quello che fanno i media italiani. Cioè Tocqueville nel 1835 e nel 1840 sosteneva che i due pilastri reggono la democrazia americana, e cioè l'associazionismo privato e dei media liberi. Noi non abbiamo né l'uno né l'altro, abbiamo dei media che da 6 mesi ossequiano un governo che ha gettato il paese nella più grave depressione del dopoguerra, che continua a massacrare i cittadini di tasse e continua a promettere una crescita che non si capisce bene, visto che si tratta di economisti, come possono conciliare la crescita con il massacro fiscale cui sottopongono il paese. Il paese è in piena depressione, quest'anno il PIL sarà sotto il 3%, i consumi sono crollati, la gente non va nemmeno più in vacanza. La domanda che io faccio: hanno aumentato le tasse sulla benzina per impedire agli italiani di andare in vacanza e di avere degli incidenti d'auto? Non facciamo ridere, per favore, non ci prendano almeno per i fondelli. Su questo mi devo fermare. Ecco, sapevo che me la mettevano. Vabbè, Vasco Rossi. Ci troviamo domani alle 7:20. Bevi la Coca-Cola.